Se ti senti giù, non arrenderti mai, troverai quello che vuoi. Il futuro è già qua, il mondo che vuoi ricomincia da noi, solo se lo vuoi, uniti noi saremo eroi, noi con te. Dendo Robot, difendi la libertà, invincibile dentro la potenza che era chiusa in te, ci dà coraggio oltre le stelle più in là, invincibile dentro sarà imbattibile la tua energia, invincibile.